Abbiamo invitato Emilio Dal Monte, vice direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, capo del settore comunicazione. Ciao Emilio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno. Senti, Emilio, uno che l'Europa la conosci benissimo, da quanto la frequenti? Io ho frequentato, ho sofferto a Bruxelles per 30 anni, adesso sono all'ufficio di rappresentanza qui in Italia a Roma da qualche mese e ci sto bene. Adesso insomma ci facciamo anche un po' di affari tuoi, ma è vero che ti sei fatto Bruxelles, Roma, Emilia, la Romagna, tu sei un romagnolo, più volte in bicicletta? Certamente, è verissimo, me la sono fatta 4-5 volte così per vedere come funziona l'Europa dal vero, per parlare con la gente, mettiamola così. Fantastico, quanto tempo ci vuole? 10 giorni. Ah beh, pensavo anche dieci giorni di solitudine che fanno sempre bene allo spirito, fra l'altro, ma ti permettono di fare degli incontri meravigliosi. Insomma, no, l'Europa reale, perché a volte anche chi frequenta il palazzo magari c'è un po' la sensazione che si dimentichi di come sia poi l'Europa nella strada. Tu invece sei riuscito a coniugare bene questi due aspetti. Esatto, sì, ci ho provato. Ecco, e l'Eurobarometro, di cui ho detto poche parole prima, è un po' uno strumento che cerca di capire com'è l'Europa della strada, l'Europa della popolazione. Senz'altro, secondo me ci riesce anche, perché tu hai detto bene, hai parlato del 73, in realtà il primissimo sondaggio venne fatto nel 1970, quando c'erano ancora prima dell'allargamento, del primo allargamento che prese il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda. Insomma, come dire, dal 73, primavera 74, è stato sistematizzato quello che oggi si chiama l'Eurobarometro standard. Che cosa vuol dire? Vuol dire che due volte all'anno si fanno delle interviste faccia a faccia con un migliaio in media di persone per ognuno dei paesi aderenti all'Unione e paesi candidati. E così si viene un po' a sapere che cosa pensano i vari paesi di tutta una serie di situazioni, insomma, di politiche, di attualità e in prospettiva. Ecco. Mm-hmm. E questo è l'Eurobarometro standard, diciamo. Poi nel frattempo diciamo che questo Eurobarometro, che in realtà è un vero e proprio servizio della Commissione, non è solo il sondaggio, nel corso degli anni si è ampliato e ha preso a bordo altri strumenti. Ad esempio c'è l'Eurobarometro speciale, quando si vuole approfondire una tematica ben precisa, e in quel caso poi i risultati vengono inseriti nell'Eurobarometro standard. Mm-hmm. Dal 90 si è aggiunto il flash. Flash, beh già lo dice la parola, flash vuol dire semplicemente che si prende un gruppo di persone ben preciso e lo si interroga su una questione ben precisa e lo si fa telefonicamente, questo per avere i risultati in maniera molto veloce, quindi certo. Non è più un'intervista faccia a faccia ma telefonica. Ma quindi questi sondaggi vengono fatti in tutte le nazioni dell'Unione? E poi... Assolutamente, uh-huh. In tutti i sondaggi dell'Unione, per questo quello che dicevi tu prima è assolutamente vero, cioè la Commissione Europea e l'Unione di conseguenza è in grado veramente di tastare il polso di tutta la popolazione in qualunque momento e direi su qualunque argomento, perché non dimentichiamoci che se uno va a vedere il database di Eurobarometro si trova di fronte a una mole di dati assolutamente impressionante. Qui abbiamo 40 anni di rilevazioni e di sondaggi. Ma e qual è l'uso che ne viene fatto prevalentemente? Nel senso, viene usato in chiave di prospettiva, quindi guardando al futuro, o è solo una sorta per misurare un po' quello che è stato, un consenso o un non consenso sulle scelte principali? Tutti e due. Ti rispondo, nel senso che se uno va a leggere i documenti scritti in burocratese trova upstream e downstream. Ecco, questo vuol dire che da una parte si cerca di capire come la gente ha reagito di fronte a certe scelte politiche, non so, per dire l'euro, ecco, sì. È una cosa molto semplice. Dall'altra parte si cerca di anticipare, e quando si cerca di anticipare entra in gioco un altro strumento, che è il quarto, di cui non ho ancora parlato, che è quello dei gruppi. Vengono selezionati dei gruppi ovviamente statisticamente rappresentativi eccetera eccetera, e gruppi di persone che vengono fatte discutere più o meno a ruota libera, con interviste non strutturate come la nostra di adesso, insomma, e si registra come le persone reagiscono di fronte a certi messaggi e si cerca di capire quali sono le loro motivazioni, che anche questo per spiegare poi i risultati dell'Eurobarometro. Quindi c'è una doppia prospettiva, se vogliamo, si cerca di capire come la gente ha reagito e che cosa vorrebbe per il futuro. Ho capito. Emilio, passiamo un attimo dai numeri alle persone. Sono appena stati pubblicati i dati dell'ultimo Eurobarometro standard. È vero, sì. C'è qualche elemento, qualche misura particolarmente significativa? Ma intanto io ti posso parlare, se vuoi, dell'Eurobarometro standard riferito all'Italia, che sì, mi sembra fosse la cosa migliore, nel senso che ogni volta che c'è un Eurobarometro poi si estraggono i risultati di ogni singolo paese, che evidentemente sono quelli più interessanti per l'opinione pubblica. Io non lo so, se dovessi riassumere l'Eurobarometro dell'autunno del 2010, che è stato pubblicato appunto un paio di settimane, direi, userei sempre la parola crisi economica. C'è poco da fare, l'economia e la crisi continuano a farla da padrone, e proprio si vede che è questa la preoccupazione maggiore, e soprattutto per i giovani che fanno una gran fatica a trovare un lavoro e sono in Italia ancora più pessimisti dei loro coetanei europei. Quindi questo è il vero, diciamo, punto di partenza dell'Eurobarometro italiano, chiamiamolo così. Sì. Quindi un leggero ottimismo di fondo che riprende, c'è una leggera ripresa d'ottimismo, però i giovani continuano a vedersela brutta e a prevedere quindi un futuro incerto. Che questo è significativo, anche perché comunque i giovani sono quelli che meglio respirano, credo, certo, il concetto di Europa unita, cioè nel senso che per loro si sentono più europei che i meno giovani. Quello è sicuramente un altro aspetto, è un altro aspetto che mi fa piacere da un certo punto Prodomo Mea, nel senso che le istituzioni europee sono viste ancora con molto favore, e anche la gente in Italia crede nell'Europa, nelle istituzioni europee, considera che siano le istituzioni europee il luogo migliore, diciamo, il luogo deputato per affrontare la crisi, e credono ancora nell'euro molto più dei loro coetanei europei. Quello che ho trovato particolarmente interessante sono le strade che gli italiani indicano per uscire dalla crisi, e su questo sono, direi, perfettamente in linea con il resto dell'Europa, sia per uscire dalla crisi economica che da quella finanziaria, perché se ho un attimo ti dico, sì, certo, qualche dato. Per uscire dalla crisi economica l'italiano, diciamo intervistato, medio, il campione italiano, insiste molto su migliorare istruzione e formazione professionale, e in secondo luogo investire in innovazione e ricerca. Per questo noi ci sentiamo confortati, perché queste sono le strade che indica anche l'Europa, insomma sono le strade della sua strategia Europa 2020, e che infatti non a caso gli obiettivi anche della strategia Europa 2020 sono sottoscritti, direi, dalla stragrande maggioranza del campione italiano. Quello che mi ha colpito molto a titolo puramente personale è la via d'uscita che gli italiani vedono dalla crisi finanziaria. Qui abbiamo delle percentuali che non si possono più definire bulgare, una volta le si chiamava così, ma fra l'80 e il 90% degli italiani e degli europei, sottolineo, ritengono che l'Unione Europea debba avere un ruolo importante nel definire delle regole per i mercati finanziari, ma non regole qualunque. Qui si sostiene a gran voce la lotta contro l'evasione fiscale, la lotta contro i paradisi fiscali, qui siamo all'88%, cioè sono dati incontrovertibili. Si insiste molto sull'introduzione di una tassa sui profitti delle banche, e si insiste molto su una stretta nei confronti dei fondi speculativi, i famosi hedge funds. Ecco, quindi voglio dire, ci sono degli orientamenti dell'opinione pubblica che sono estremamente netti. Significativi. Quello che non si trova forse appunto nella propria nazione lo si inizia a cercare in Europa, quindi è un po' anche questo, sì, credo che sia un salto culturale importante. Assolutamente. Infatti il grado di fiducia, e come dicevo prima, anche proprio nelle istituzioni europee in quanto tali, è ben oltre il 50%, allora quando il grado di fiducia nel governo nazionale è al 27%, se non sbaglio, qualcosa del genere. Quindi c'è una grossa differenza effettivamente di percezione. Emilio, grazie davvero per averci dato questa lettura. In chiusura, so che insomma state lavorando a un importante festival, sarà la prima edizione credo di un festival europeo, si terrà a maggio, se non erro, a Firenze. Sì. Infatti tutti sono caldamente invitati a partecipare. Firenze sarà il teatro di un Festival d'Europa che viene organizzato dall'Istituto Universitario Europeo, che è una emanazione, se vogliamo, un istituto di ricerca molto importante, che è a Fiesole, e che ha avuto la ottima idea di organizzare 5 giorni di Festival d'Europa. Noi saremo presenti in Piazza della Signoria dal 6 al 10 maggio. Ok, insomma avremo il 9 e 10, dove ci sarà saranno delle conferenze importantissime, parteciperà il Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione, ci sarà Lady Ashton, la nostra alta rappresentante per la politica. Avremo modo di parlare. Tra l'altro Barroso sarà proprio a Roma il 14 marzo, che se non erro riceverà anche una laurea honoris causa. Grazie davvero Emilio, tu ovviamente a Firenze andrai in bicicletta, giusto? Ovviamente. Grazie, un saluto a Emilio Dal Monte, vice direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao e buon sabato. Grazie, Federico, ciao, ciao Emilio.